la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast. Sono le 16:07 primi, anzi 8 primi in questo secondo. Vi dico subito di che cosa parliamo fino alle 5 meno 5 minuti. Il più della trasmissione, i due terzi, quindi, è dedicato al cantiere delle pensioni. In particolare partiremo dalla proposta che ieri è stata illustrata dal governo ai sindacati. Sapete che gli incontri con i sindacati sono molto serrati e ce ne saranno di quelli conclusivi prima del documento di economia e finanza del 20 settembre la settimana prossima, ma ieri tra le tante proposte che sono sul tavolo per toccare le pensioni, i sindacati chiedono lo stop dell'aumento automatico del requisito anagrafico delle pensioni disposto dalla legge Fornero e che scatterà rispetto ai 66 anni e 7 mesi nel 2019. I sindacati chiedono un ritorno alla rivalutazione molto più piena degli assegni previdenziali. Ieri però, oltre a questi temi che sono sul tavolo e sui quali il governo non avrebbe, pare, le risorse, ma uso il condizionale, perché le cifre vere della legge di bilancio non le sappiamo ancora, devono essere ancora inglobate le stime da maggior gettito dell'aumento di crescita di quest'anno, e vedremo la settimana prossima, lo vedremo con il DEF appunto. Ma ieri, e l'ho trovato sui giornali di oggi, la proposta del governo era incentrata su come, sia pure con questi limiti di finanza pubblica stretta, tentare di far accrescere il numero delle donne, poche, troppo poche, che hanno chiesto l'accesso all'anticipo di pensione, l'APE cosiddetta, social, cioè per le categorie più tutelate, non quello con l'assegno che ammortizza pienamente chi vuole andare in pensione prima, l'equivalente di quanto si incassa di più, ma quello tutelato, quindi a carico della, con una quota a carico della fiscalità generale, l'APE social. E il fatto è che ad aver richiesto l'APE social come il governo l'aveva predisposta sono state, pare, molto meno donne del previsto. Si pensava una quota intorno al 40% di chi faceva richiesta, siamo invece neanche al 30%. E la proposta che il governo ha illustrato è: possiamo fare uno sconto fino a 2 anni dei requisiti di età anagrafica per l'anticipo della pensione sociale, l'APE social, con tenuto conto anche dei figli. Uno sconto di 6 mesi di requisito anagrafico per figlio. Ecco, partiremo da questo e però facciamo anche una riflessione generale sulle altre proposte del sindacato. Nell'ultima parte invece toccheremo un tema che io ho già più volte toccato negli anni nelle trasmissioni, ogni 3 mesi quasi, perché ogni 3 mesi quasi i governi in carica proponevano interventi sul gioco legale. Quindi le slot negli esercizi, bar e tabaccherie e le videolotteri nelle sale dedicate delle grandi catene. Siccome siamo in procinto di un nuovo intervento nella legge di bilancio, il sottosegretario al MEF Baretta ha illustrato alla conferenza con le regioni nuove proposte. Torneremo alla fine a occuparci anche di questo, perché come al solito, questa è la mia opinione, da una parte lo Stato ci tiene a fare la parte dell'etico che mette limiti, dall'altro sapete, in casa più 10 miliardi di euro l'anno e sono in crescita su 96 miliardi giocati, di cui 75 poi più o meno vanno a montepremi, ma la verità è che ancora una volta siamo in presenza di un singolare metodo di intervento, perché a mio giudizio si mettono nel mirino i piccoli esercenti, quelli che stanno più stretti sui bilanci, per così dire, e cioè le slot nei bar e nelle tabaccherie, e invece le grandi sale dedicate dove si gioca il più, quelle no. Ecco, allora faremo una riflessione su questo, ma partiamo dalle pensioni. Io, prima di presentarvi due ospiti e limitarmi a fare domande, anche perché si tratta di capire, perché sono proposte su un tema molto tecnico, mi limito a dire questo: io invito tutti coloro che comprano il sole, non essere la grande maggioranza di chi ci ascolta, ma comunque faccio una brevissima sintesi di un articolo oggi secondo me molto utile sul Sole per tutti coloro che inseguono questo tema sui giornali e non sono addetti ai lavori e leggono grandi titoli sul fatto che l'Italia oramai ha il record dell'età pensionabile, qui si tratta di innalzarla tra un po' a 70 anni e come poi l'anno prossimo entra il requisito della parificazione tra uomini e donne, quindi anche le donne arrivano a 66 anni e 7 mesi e non c'è in nessun paese europeo, eccetera eccetera. Allora oggi guardatevi un articoletto, lo trovate anche su internet, accesso libero, l'ha scritto Davide Colombo, a pagina 5 del Sole, nessun record virtuoso dell'Italia sull'età effettiva di pensionamento. Sull'età effettiva, cioè sui requisiti legali, noi sulla carta oramai battiamo quasi tutti, ma il problema è che a furia di deroghe, l'età reale di chi va in pensione, anche nel 2015 e così via, non è quella dell'età del requisito anagrafico legale vigente, ma è molto più bassa. Ecco, mi limito a darvi due numeri, perché poi bisogna ragionare sulle cose reali. Ecco, per esempio, le donne tra il 2009 e il 2014, sto leggendo il pezzo di Davide Colombo, le lavoratrici italiane sono andate in pensione all'età media effettiva di 61 anni e un mese, mentre per i maschi era 61 anni e 4 mesi, e l'età effettiva, non il requisito anagrafico legale. Mentre in Germania le loro colleghe si ritiravano a 62 anni e 7 mesi, nel Regno Unito 62 anni e 4 mesi, in Spagna 63 anni e 1 mese, in Svezia 64 anni e 2 mesi. Quindi, come si vede, in Italia meno l'età effettiva media della maturazione della pensione femminile, più bassa, non uguale o addirittura più alta di quelli degli altri paesi. Ultima cifra e ho finito. Nei 22 anni passati, ho ripreso a leggere, dalla riforma Dini, cioè tra il 1997 e il 2016, sono andati in pensione nel solo settore privato italiano 6,9 milioni di italiani, e l'età media di pensionamento non ha mai superato i 63 anni. Non solo, la metà dei nuovi pensionati ha raggiunto la pensione di anzianità a una media di quasi 58 anni, anche nel 2016, meno di 61 anni, non i 66 anni e 7 mesi del requisito legale. Ecco, perché richiamo questi numeri? Perché se andiamo a vedere l'età reale in cui si continua ad andare in pensione nel nostro paese, non mi sembra saggio continuare a lavorare con tutta questa energia su requisiti di prepensionamento, perché è ovvio che si vuole smontare la legge Fornero, diciamocelo chiaro, cioè, il sindacato lo dice, una parte della politica che lo dice, Cesare Damiano l'ha sempre detto, io glielo riconosco, un pezzo del PD, anche Renzi si è ormai convinto in quest'estate che bisogna smontarla, la legge Fornero, ma visto il bilancio dell'INPS, visto che dedichiamo la parte preponderante della spesa sociale alle pensioni, e così facendo ne dedicheremo ancora di più, e quindi ne avanza molto meno che negli altri paesi europei, esattamente per i giovani, la famiglia, il sostegno alle cure parentali, eccetera, eccetera, io credo che noi andiamo nella direzione sbagliata. Naturalmente è un'opinione minoritaria, e qui mi fermo. L'idea di maturare per l'APE social alle donne requisiti di abbassamento dell'età anagrafica per ottenerla in base al numero di figli ottenuto, tutto posso accettare che venga detto, ma non che un sostegno alla maternità e alle politiche familiari, perché il sostegno alla maternità e alle politiche familiari si fa con le donne giovani in età di lavoro per sostenerne l'occupabilità, con strumenti, orari di lavoro, garanzie di legge che impediscano loro di essere buttate fuori se hanno contratti a tempo. Per questo si fa con equità, cioè uguali paghe tra uomini e donne, ma non lo si fa con la promessa che andrà in pensione 6 mesi prima, secondo il numero di figli che hai fatto. Questa è la mia opinione, ma ora mi taccio. Perché? Perché presentiamo i due ospiti, e con noi il segretario confederale della CGIL nazionale Roberto Ghiselli, grazie di essere con noi, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. E Giuliano Cazzola, esperto di welfare e previdenza, buon pomeriggio Cazzola. Grazie all'ospite e a lei. Ghiselli, intanto corregga tutto quello che ho detto nella sintesi, perché sicuramente in qualche errore sarò in corso, e però ci dia il vostro punto di vista sullo stato del confronto con il governo. Poi entriamo nel merito dei 6 mesi per figlio per la persona alle donne, ma dal vostro punto di vista cosa pensate di ottenere, e che cosa intanto è chiaro, se il governo è stato chiaro fino a questo momento, Ghiselli? Sì, intanto ovviamente parliamo di opinioni, quindi sì. non si possono correggere le sue opinioni, no, come opinione che rispetto. Può dire anche, ha detto una cosa, invece, esatto. Dica pure. C'è un punto invece dove c'è una cosa che effettivamente vorrei chiarire meglio. La proposta che il governo ha fatto ieri sulle donne, che come saprete per noi è largamente insufficiente, comunque in ogni caso non fa riferimento a un anticipo dell'età pensionabile legata al numero di figli. Fa riferimento a una riduzione del requisito contributivo per poter accedere alla sociale. Ha ragione. Quindi in questo caso l'età rimarrebbe sempre quella, 63 anni come minimo, eccetera, eccetera. La platea rimarrebbe quella, però siccome, come lei diceva correttamente, con la prima fase dell'esperienza dell'arte sociale, le donne hanno avuto accesso a questa opportunità in una percentuale molto bassa, sotto il 30%, l'ostacolo principale derivava dal fatto che vi era questa soglia contributiva dei 30 anni o dei 36 anni di contributi per poter accedere a questi benefici. Dal momento in cui le donne, nella media, hanno una storia contributiva più bassa, molto più bassa rispetto agli uomini, per le difficoltà che hanno nel garantire una continuità occupazionale, questo ostacolo ha determinato questa cosa che in parte il governo propone di modificare. Voi, siccome ci ha detto, è largamente insufficiente, che cosa su questo punto preciso controproponete? Sì, perché il punto, anche qui riferendosi alla sua premessa, non è che noi abbiamo fatto una trattativa partendo dal presupposto che occorreva trovare dei correttivi all'ape sociale. Il punto fissato nel verbale firmato un anno fa, firmato dall'allora governo, che è in coerenza con questo governo qua, parlava del tema del riconoscimento del lavoro di cura delle donne, di tutte le donne. Cioè noi veniamo da una storia passata nella quale fra uomo e donna vi era storicamente una differenza nell'accesso alla pensione che era più o meno i 5 anni, che gradualmente si sono ridotti fino a scomparire del tutto. E probabilmente era sbagliato quel sistema, però la condizione di vita e di lavoro della donna in rapporto quindi al lavoro di cura, alle professioni, a redditi percepiti, non è come quella degli uomini, non era in passato e non lo sarà purtroppo anche in futuro. Quindi non si possono determinare regole assolutamente uguali in condizioni diverse, altrimenti si crea una disparità. Ecco perché c'è un tema di riconoscere da un punto di vista contributivo il lavoro di cura che nel corso della vita uno ha fatto, o perché è stata madre, o perché ha accudito il genitore anziano, o perché ha accudito il familiare disabile, che prevalentemente queste attività sono a carico delle donne, riconoscerlo con, come dire, sotto forma di agevolazioni contributive, in questo caso agendo anche possibilmente sull'età pensionabile, visto che ormai l'età pensionabile arriverà dal prossimo anno alla stessa. Questo è il punto da cui siamo partiti. E questo ragionamento non riguarda soltanto quelle limitate categorie che possono entrare dentro l'app sociale, che sono poche. Voi vorreste che riguardasse tutti. Tutte le donne che hanno quelle caratteristiche. Questo è un punto di dissenso importante. Cioè noi vogliamo una soluzione che sia universale e sia esigibile da una platea. Tenga conto che il governo nel presentarci la proposta di ieri l'ha stimata in circa 4.000 donne in un anno, che già di per sé la loro stima è, come dire, visibile rispetto al problema. Noi crediamo che sia più o meno la metà di quella cifra che loro in qualche modo hanno stimato. Quindi ancora più limitata. Non stiamo parlando di nulla. Ma la vostra opinione, la vostra richiesta generale invece, voi, anche se siete proponenti, quindi beneficio del dubbio e del sospetto c'è, ma in quanto stimereste gli oneri se si facesse come dite voi per le donne? Ma intanto è una proiezione che è graduata nel tempo, quindi ovviamente non vi è un impatto immediato. Poi io non vorrei andare troppo nel tecnico. No, capisco, però sa, una parte del ragionamento, per quelli come me e che mi ascoltano, la questione di quanta parte ogni anno al bilancio dell'INPS versa la fiscalità generale, gliel'abbiamo spiegata per anni ed è ben chiara ai nostri ascoltatori. In televisione di solito questo tema non esiste. Ai nostri ascoltatori sapere che possono apparire opinioni, sono tutte le opinioni legittime, ma anche molto giuste. Il problema è poi chi paga, questo per essere chiaro. Comunque, è chiaro che dipende la soluzione concreta che si andrà a determinare. Comunque, cioè, lei ha detto, voi avete detto intanto una cosa chiara: per noi la parificazione del requisito d'età anagrafica è sbagliata in relazione al fatto che bisognerebbe lì intervenire con una correzione sostanziale di agevolazione contributiva, di differenziazione contributiva per la maturazione del requisito anagrafico della pensione, in ragione del fatto che alla donna noi chiediamo un record di lavoro non retribuito. Nel nostro paese è proprio un record rispetto a quelli avanzati per le cure parentali e così via. Corretto? Sì. Ok. Ma perché chiedete anche lo stop dell'aumento del requisito automatico, quello per legge Fornero, che è nel 2019, per tutti? Ah, noi intanto vogliamo precisare, noi non siamo consapevoli che vi è una dinamica demografica che sta producendo delle conseguenze. Una dinamica demografica che sta seguendo delle traiettorie non lineari, perché se, siccome stiamo parlando dell'innalzamento della speranza di vita al 65esimo anno di età, e l'Istat stima una crescita, poi il dato ufficiale dovrà uscire. Se ad esempio cominciamo a guardare quello stesso dato alla nascita, ci accorgiamo ad esempio che già il dato del 2015, ma probabilmente, anzi ne siamo convinti anche il 2017, dimostrerà che ad esempio anche per il calo delle cure è cresciuta la mortalità, quindi questa speranza di vita alla nascita tenderà. Quindi abbiamo una traiettoria che non è lineare, ma in ogni caso, al di là di questo, lo si vedrà. C'è un rapporto naturalmente fra demografia e eccetera. Il punto è che noi con la riforma Fornero, in quel contesto, con quelle esigenze, con quelle pressioni, si è scaricato sulle regole pensionistiche, quindi sulla previsione di risparmio pensionistico, tutto l'onere fondamentale di quella manovra economica. Quindi si è innalzata in maniera repentina e drastica l'età pensionabile per tutti, in questo caso a maggior ragione per le donne, dove la cosa è stata ancora più accelerata. Quindi si arriverà, perché lei prima parlava, citando sulle 24 ore, dell'età effettiva. Sì, l'età effettiva, sì. Sì, però quella è la storia. No, sì, ma continua a essere la storia presente, non la no, storia degli anni passati. Come no? Mi consente. Dica, certo. Oggi, mi consente, vabbè. No, oggi. si dice per sorridere, infatti, si consente. Sì, oggi, chi vuole, perché la storia anche recente ha la storia degli esodati, ha la storia di opzione donna, ha degli strumenti che effettivamente hanno in qualche modo derogato. No, sono gli strumenti che io raccolgo nella categoria a furia di deroghe. Lo sa meglio di me che, sì, che le successive deroghe per gli esodati hanno a che fare con la definizione tecnica di chi era esodato davvero tra le due cose. Se guardiamo da quello che succederà da oggi in avanti, stando alla tale normativa, tutta la tale normativa, oggi in pensione si andrà, dal 2018 in pensione si andrà o con 66 anni e 7 mesi di età, che diventerebbero, se l'Istat conferma la stima di 5 mesi in più, 70 anni dal 2019, oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi, che è un livello di lavoro e di contribuzione, soprattutto in certi lavori, che lascia immaginare agli ascoltatori e a tutti noi cosa vuol dire fare un lavoro, ma non dico il lavoro in fonderia, che tutti ovviamente capiscono, ma in qualunque lavoro, dietro un banco gastronomia, in un asilo nido, questo io lo capisco, è la vostra posizione. Quindi, però se noi guardiamo ai paesi in cui l'età effettiva di pensionamento è sempre stata più elevata della nostra, e questo problema ha iniziato ad affrontarlo negli ultimi 15 anni, lì è maturata una cultura del lavoro per cui all'interno dei settori e delle stesse aziende, perché questo capita con gli accordi in Germania per esempio, nel progredire dell'età contributiva le mansioni cambiano, e questa è diventata una maniera di contrattare all'interno delle imprese, invece di dire no, ma adesso io non voglio, per carità di Dio, non voglio, però per dire che non è che negli altri paesi dove vanno in pensione a un'età effettiva di 3-4 anni ancora, superiore alla nostra che è di 61 anni e pochi mesi, il problema non sia stato affrontato. Comunque le confermo, l'età legale, quella reale che sarà da qui in avanti, è quella che le stavo dicendo prima. Aspetti un secondo, sentiamo Giuliano Cazzola, perché anche Giuliano Cazzola è intervenuto più volte su questa questione di dire guardiamo i dati della maturazione dell'età effettiva in cui si maturano gli assegni della vecchia anzianità. Cazzola, lei che dice? No, io sono d'accordo con lei per le cose che ha detto, che bisogna guardare l'età effettiva, che la questione dei 67 anni è uno spauracchio per i talk show, perché in Italia diciamo sono di più quelli che vanno in pensione prima, un'età più bassa, e dal 2012 alla fine del 2016 ci sono state 600.000 pensioni anticipate contro 450.000 pensioni di anzianità nel settore di vecchiaia nel settore privato. E sono altrettanto convinto, insomma, che si stia facendo a pezzi la riforma Fornero, che il governo con questa storia dell'app social volontaria e così via cerchi di dare una risposta ad un'offensiva che è molto potente, che non è solo dei sindacati, ma un'offensiva mediatica, un'offensiva molto forte. No, è un'offensiva che somma poi la destra e la sinistra. Quindi, come? È un'offensiva che somma la destra e la sinistra dal punto somma di vista la destra, somma tutti, se vuoi. Ma la cosa singolare è che io non capisco perché ci sia questo accanimento sull'età, e anche a costo dell'adeguatezza. Per esempio, ecco, proporre che il requisito pensionistico all'età di vecchiaia per quelli che sono nel contributivo, invece che 1,5 sia 1,2, cioè dell'importo della pensione, cioè è scegliere un'età più bassa a costo di una pensione minore. E sinceramente, però ecco, io riconosco anche che se qualcuno, una categoria, ha pagato un prezzo alto, queste sono le donne. Cioè, le donne dalla parificazione indubbiamente hanno pagato un prezzo alto. Peraltro faccio notare al mio carissimo amico, che è il nostro interlocutore, che noi siamo sotto scacco della UE per la differenza fra 42 anni e rotti per gli uomini e 41 anni e rotti per le donne, perché ci dicono che anche questa è una discriminazione nei confronti delle donne. Ecco, poi io sinceramente, se dovessi guardare ai difetti della Fornero, secondo me il problema non è quello di arrivare a 70 anni, perché bisogna guardare anche all'attesa di vita, no? Quando si arriverà a 70 anni, probabilmente la gente camperà fino a 86-87 anni, no? Quindi sostanzialmente il conto torna. Secondo me il problema del futuro è che è indicizzato all'attesa di vita anche il requisito contributivo, per cui nel 2050 bisogna lavorare 46 anni, e questo in effetti, a me sembra, anche se in Germania oggi il requisito contributivo a prescindere dall'età anagrafica è di 45 anni, a me sembra che insomma, che su questo probabilmente... Sì, pensare di andare verso i 50 anni di requisito contributivo in progressione... Beh, effettivamente, alla fine del secolo probabilmente ci dovrebbe arrivare a 50 anni, mi sembra... Effettivamente. Io faccio notare che in questi sei mesi, nei primi sei mesi dell'anno, questi sono dati, non sono solo i dati di Colombo prende i dati dell'Inps, sì. ci sono diciamo circa 20.000 italiani come solo lavoratori dipendenti che sono andati in pensione con un'età inferiore a 60 anni, che è solo circa grosso modo il 40% di quelli che sono andati in pensione di anzianità. Anch'io le ho viste questi numeri. Ghiselli ci dice però che questo fenomeno è finito. Certo, pesano gli esodati, pesano queste cose, pesano, ma il guaio della riforma Fornero è che è una facciata piena di deroghe, nel senso che fino ad oggi dalla riforma Fornero sono andati in vigore le deroghe. Sì, sì, appunto, non è passato anno senza che ce ne fosse stata più di una. È una legge, la Fornero, che rischia di morire inapplicata. Ma questo è anche secondo la mia opinione, io lo do per spacciata della verità, perché i sindacati lo hanno sempre detto, questo io glielo riconosco. La politica è arrivata alla totale unanimità contro la legge Fornero negli anni, questo è il punto. Perché... Ma sì, infatti io sono stato preso in giro da tutti, perché vengo presentato come una specie di giapponese, giapponese nella giungla. Sì, allora, sì. Torniamo con i nostri due ospiti, perché io devo fare anche un supplemento di domanda. Come vedete, le opinioni sono diverse, ma si dialoga, perché Ghiselli dice quello che volete, cari Giannino e cari Cazzola, però... Voi non siete in grado di dare una risposta, questo non glielo dico io per lui, me lo dico da solo, perché in realtà questo innalzamento, dopo un periodo di riduzione troppo lunga dell'applicazione della riforma Dini, questo è il punto, ma questo innalzamento così violento per recuperare il gap e la spesa previdenziale, questo è il punto, che si accumulava troppa rispetto al PIL e agli altri paesi europei, voi in realtà avete radicalmente cambiato il quadro della possibilità di lavorare dignitosamente. Questo è l'argomento della CGIL e dei sindacati, un signor argomento, io mi permetto di dire, non esiste, però il problema è che poi i conti non tornano. Ma io, quando torniamo, devo chiedere anche a Ghiselli e Cazzola cosa pensano di una roba che a me ha lasciato senza parole, però ne prendo atto, e cioè di dire ai giovani che oggi sono a bassa continuità contributiva, i precari, promettergli di qui a 20 anni, no, ma tra 20 anni noi facciamo lo sconto sulla pensione. Ecco, io questa veramente è una roba che non l'ho capita e chiederò a loro. Intanto la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Il la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, Cantiere Pensioni, App Social, misure per tentare di abbassare un po' l'asta per la partecipazione app social delle donne. E con noi Roberto Ghisello, segretario confederale della CGIL nazionale, Giuliano Cazzola, esperto di welfare e previdenza. Ghiselli, mi dice, questa idea del governo, di questa se ne è parlato la settimana scorsa, a dire la verità, cioè di dire ai giovani precari di oggi che vivono, malgrado il Jobs Act, su questo qui, chi parla qui non è sospettabile di aver avuto toni compiacenti, basta vedere a chi è andata l'occupazione aggiuntiva degli ultimi 3 anni in termini di corti anagrafiche per sapere che i giovani non ne hanno beneficiato se non in parte minore rispetto agli over 50, e il più degli over 50 nasce appunto anche in quel caso dalla legge Fornero, cioè dalla protrazione dei rapporti di lavoro per l'innalzamento del requisito anagrafico più che per benefici diretti. Ma detto tutto questo, che senso ha dire ai giovani precari di oggi, come ha fatto il governo, vi integriamo la pensione rispetto alla minima sociale di qua a 20 anni, secondo lei? Ma se mi consente 10 secondi, vorrei riprendere un tema. Tutto quello che vuole, su quello che abbiamo detto, certo. Perché credo che rispetto alle condizioni per l'uscita dal mondo del lavoro, noi siamo portatori di un'idea che secondo me è coerente. Cioè, non tutti i lavori sono uguali, non tutte le condizioni successive, certo, familiari sono uguali. Quindi il tema vero è quello di immaginare un sistema flessibile di uscita. Perché vi sono lavori gratificanti, ben pagati, dove le persone, è a volte difficile farli uscire da un lavoro. Vi sono condizioni personali, soggettivo familiare, che ti costringono a non sopportare più un lavoro, a non poterti più permettere di lavorare perché hai dei problemi di cura, eccetera, eccetera. Quindi l'idea nostra è quella di, come dire, rendere flessibile da 63 anni a 70 anni la possibilità d'uscita, dando al lavoratore la possibilità di scegliere. È evidente che nel sistema contributivo soprattutto, io so bene che se vado a una certa età prendo di più, se vado a una certa età prendo di meno. Quindi questo intanto è un approccio che da un certo punto di vista rende più libere le persone di scegliere, e in un sistema contributivo ha anche una sua sostenibilità economica, fatto salvo il fatto che alcune attività vanno particolarmente riconosciute. Obiezione sempre da parte mia: se fossimo in un sistema contributivo a capitalizzazione lei avrebbe integralmente ragione, siccome siamo in un sistema contributivo ma a ripartizione conta anche poi l'effetto di chi paga, chi anticipa l'uscita. Questo... Ma guarda che sempre rimanendo nel sistema contributivo, se noi pensiamo a regime, un'uscita anticipata rispetto a un'uscita posticipata, dal punto di vista della ricaduta economica, è indifferente nel medio e lungo termine. Chiaro che vi sarebbe un'anticipazione con dei recuperi poi in prospettiva. Quindi tornando un po' al discorso del parametro 1,5 e 2,8, che sono degli ostacoli, come dire, inversamente, cioè da un punto di vista sociale, disuguali, nel senso che sono sicuramente iniqui perché premiano le pensioni e i redditi relativamente più alti. Se si togliessero di mezzo, si ridimensionassero quei due parametri, si creerebbe un effetto di flessibilizzazione che secondo noi farebbe bene. Venendo alla sua domanda invece sulla proposta relativa ai giovani, noi siamo come impianto radicalmente contrari a quell'ipotesi. Noi CGIL non abbiamo l'ho visto, mai pensato, per questo anche voglio che sapere perché. Che la soluzione, anche come dire, da un punto di vista del segnale che si dà, ecco, anche da un punto di vista educativo, sì, l'idea di garantire, di dire guarda, tu fai tutto quello che ti pare durante la tua vita, sai che quando arriverai a una certa età comunque i 650 euro te le garantisco, è un segnale sbagliato. Sì. La nostra ipotesi invece è quella di collegare strettamente quella che è, come dire, la carriera lavorativa di una persona a quella che è il suo risultato pensionistico, e nel caso in cui vi è bisogno, come dire, di una solidarietà, perché una persona ha costruito carriere deboli perché è stato discontinuo, ha lavorato part time, ha fatto tanto lavoro di cura, è stato disoccupato, eccetera, eccetera, quei periodi lì, solo quei periodi lì, vanno in qualche modo tenuti in considerazione, ma a condizione che la persona, il lavoratore, sia attivo sul mercato del lavoro. Cioè, comunque si impegni magari a cercare lavoro, a fare la formazione, o come dire, o lavori come part-time. Quindi un'idea radicalmente diversa noi abbiamo rispetto alla proposta che è stata formulata, che è anche molto diseducativa. E sono... tra l'altro la nostra idea credo che sia anche più sostenibile. Sì, sono molto d'accordo con lei. Figura, il mio mondo ideale è un mondo nel quale c'è un'aliquota che non è uguale per tutti, ma per dare un'idea concreta di cosa vuol dire anche la giustizia intergenerazionale, è inversamente proporzionale l'aliquota alla continuità contributiva. All'inizio incentivo anche all'occupabilità è più bassa e man mano che si alza, ma questo non avverrà mai. Costituzionalmente si può fare, a differenza delle aliquote differenziate per genere o per età delle imposte, però contributivamente si potrebbe fare, ma capisco, saremo in quattro in tutta Italia a pensare così, ma questo per dirle, Ghiseli, che capisco la flessibilità di cui lei parla. Io purtroppo dico sempre, vediamo quanto costa farla. Per il momento noi stiamo smontando anno dopo anno, c'è stato un intervento di massiccia deroga più di uno l'anno da che c'è la Fornero, e quindi non so come ci troveremo, perché dopo tutti questi interventi è ovvio che sono legittimate ancora di più e ogni volta di più le vostre richieste, io questo non me lo nascondo, però è la politica che non ha un bandolo in mano, ecco, per dire a dei giovani di oggi che sono precari, come ha detto lei, io condivido tutto quello che ha detto lei, gli diamo questo segnale, significa dire non contare sulle politiche attive del lavoro, non contare sul fatto che scuola e università noi ti daremo, no, anche non versare contributi, appunto, sono completamente d'accordo con lei, che comunque ti chiediamo qualcosa. A me sono cadute le braccia, perché poi è anche gente che conosco, stimo, che Morando possa pensarla così, infatti lui Morando non la pensa così, però voglio dire, bah, c'ho veramente un po' di perplessità. Allora, intanto grazie a Ghiseli e grazie a Cazzola, adesso noi abbiamo il traffico e poi andiamo a fare una controinformazione sugli annunci del governo sul settore del gioco legale. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati, intanto anche visto che avete telefonato, io non l'avevo chiamata la telefonata, ma avete chiamato comunque, quindi mi sembra giusto mandare in onda le vostre opinioni. Abbiamo in linea innanzitutto Luciano da Milano. Luciano, prego. Pronto? Eccoci, in diretta Torino, di Capua. Torino, buonasera. Buonasera. No, rispetto all'inizio della trasmissione, dove sembrava che 67 anni fosse un parametro normale per aggiustare i conteggi, adesso sta emergendo il fatto che con l'anticipata della Fornero, perché comunque quella rimane, già dell'ape sociale, tutto quello che si vuole inventare, con l'anticipata della Fornero io andrei in pensione con 43 anni di contributi circa a 65 anni di età. Mi sembra di avere abbastanza contribuito al progetto di Boeri, no? Di non mandare più in pensione la gente. No, ma Luciano, il problema, anni, vede, scusi se glielo faccio notare. Io mica dico che se la mettiamo ciascuno sul proprio bilancio di giustizia, Luciano, che vuole che dica? Chi sono io per giudicarlo o per negare che lei non abbia contribuito abbastanza? Il problema è fare ricadere le storie contributive di ciascuno in criteri generali, perché ripeto, noi diamo più di 16 punti di PIL l'anno al bilancio dell'INPS, previdenza e assistenza, 16 punti di PIL, siamo più di 3 punti di PIL superiori alla media europea e più di 4 punti erotti a quella OCSE, ed è per questo che sul totale della spesa sociale allargata 25 punti di PIL, che avanza poco per le politiche della casa, i giovani, le famiglie, cioè. E quindi in un paese che invecchia noi concentriamo tutto, e io lo capisco che lei dica, ma lei si sente di bocciarmi, io no, però a furia di accumulare deroghe rispetto a una riforma che fu troppo rapida perché la politica prima aveva si era girata dall'altra parte, come sempre fa quando accumula i debiti e i deficit per prendere consenso, e in qualche misura noi la sostenibilità finanziaria del sistema o ce la poniamo o continueremo a prendere a calcio in bocca i giovani, le donne, le famiglie e chi ha meno. Abbiamo anche elevato alla scuola e all'università la sua efficacia di ascensore sociale per questa stessa ragione, non cambiandone i curricula in vista della occupabilità, cioè della qualità dell'offerta formativa. Quindi io non, si figuri se io non le rispondo allargando le braccia, dico la capisco, però sulla base del ragionamento di ciascuno perdiamo di vista il sistema complessivo, e questo è il problema fondamentale. Allora, Intanto ci ha raggiunto, io lo ringrazio, un imprenditore del settore dei giochi che è, devo dire, io lo ringrazio anche per il mestiere che facciamo, perché lui è un alimentatore continuo di dati e di informazioni a chi fa informazione, e questo secondo me va riconosciuto, va ringraziato, perché poi io mi metto lì, controllo effettivamente molte volte, dico però mica ha torto. Eugenio Bernardi, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a lei, ascoltatori, grazie. Allora, anche i complimenti. No, i complimenti non li merito. Ma vediamo però, visto che chi è in ascolto si ha come pipeline per capire questa faccenda solo quello che ha visto sui giornali fino a quest'oggi, nella conferenza Stato-Regione, gli annunci del sottosegretario Baretta, l'ennesimo annuncio della stretta in arrivo, quindi sul settore, perché bisogna tutelare eticamente gli soggetti deboli, eccetera, eccetera. Vediamo di individuare, in questi 8 minuti che abbiamo, almeno 2-3 dei punti maggiori su cui le cose non sembrano stare propriamente come dice il sottosegretario Baretta. Cominciamo da una cosa, perché lei ha sollevato un tema molto importante. Intanto i numeri non tornano. Cosa vuol dire? Esatto, cioè Baretta ha dato dei numeri che sono in contrasto con quelli che ha dato i monopoli di Stato nel libro blu. Cioè lui mette delle tipo 5.000 sale giochi che non si capisce bene cosa sono, mette 8.000 corner che non si capisce cosa sono, e poi prevede di arrivare a 10.000 sale scommesse delle 5.000 attuali, ed è qui il punto nodale di tutta la faccenda. Il punto nodale di tutta la faccenda, io tra i pochissimi tento in questi anni di spiegarlo a chi è in ascolto, è che il riequilibrio tra virgolette etico che fa lo Stato, che con una mano fa l'etico, con l'altra mano fa quello che incassa più di 10 miliardi di euro l'anno, il riequilibrio è tutto su una parte delle imprese del gioco e degli esercenti. E così anche questa volta? Sì, dunque noi adesso andare ad aprile dobbiamo dismettere il 34% delle slot dei bar, che sono quelle che vanno a 1 euro, che vincono 100 euro, sono diciamo un pochino le più tranquille, per poi favorire l'apertura di 5.000 sale scommesse, articolo 88, in cui si potranno inserire migliaia di videolottery, che sono quelle che hanno il jackpot, che vanno a 10 euro, che vanno con le banconote, che hanno il riciclaggio continuo, che è stato suggerito dalla UIF che bisogna cambiare, non l'hanno mai cambiato, che Baretta dice che limiterà a 100 euro l'introduzione delle banconote, non serve a niente perché invece di mettere 500 euro ne metteranno 5 da 100, quindi il riciclaggio rimane e rimarrà almeno per altri 2 anni. Ma perché in questi anni gli interventi che la politica fa, perché naturalmente poi gli articoli di giornali hanno la loro parte nel dire che nelle slot che c'è il fenomeno di dipendenza dei poveri, cioè che sono fenomeni veri, la ludopatia, non dico di no. Ma però perché si concentra solo sul segmento dei piccoli esercenti, quindi bar e tabaccherie, e sulle slot rispetto alle grandi sale specializzate delle catene? Perché lui dice che ci sono troppe slot nei bar e non posso dargli torto, quindi io ritengo che un po' di ridimensionamento ci potrebbe essere fatto in un modo molto diverso di come l'ha voluto fare lui, ma soprattutto dice che le sale VLT sono più controllate, i bar sono meno controllati, mentre c'è anche una teoria di persone diciamo che curano ludopatie che dice se in un locale pubblico sono visti i giocatori è un deterrente per farli giocare meno, in una sala chiusa viene ghettizzato, gli viene magari regalato anche il bicchierino gratis o diciamo lo spumante gratis, uno sta lì, cuore non vede, occhio non vuole, punto. Nella vostra stima un intervento, se resta come quello indicato, Baretta ci crede molto a quello che ha detto, perché ormai è da mesi che ci lavora, che effetti potrebbe avere in termini di imprese del settore e occupate? Allora, già sono 2 anni che ci ha tassato con le tasse, quindi ci sono già molte ditte che hanno venduto o hanno chiuso, quindi siamo già sotto di un 30-35%. Con queste incertezze di questi anni e la futura incertezza, perché poi dovremo cambiare ancora le macchine con le guida remote, eccetera, secondo me tutto il settore va in mano ad alcuni grandi gruppi che comunque anche loro cominciano a risentire di questa cosa, perché diciamo colpire il 35% di macchine vuol dire abbassare le entrate delle aziende, ma anche le entrate dello Stato. Se qualcuno che ha fatto una denuncia alla Corte dei Conti dichiarando che Baretta ha raccontato cioè glielo ho detto io che racconto delle balle, quindi io non mi vergogno a dirlo, perché sono dato conto anche alla Ragioneria di Stato. Se quest'anno abbiamo dato 4,6 miliardi con 400.000 macchine, con 265.000 macchine daremo il 35% in meno diciamo, di entrate, e quindi lo Stato perderà almeno un miliardo e mezzo. Ma forse con le grandi catene si rifarà. Lei lo sa che quelli come lei godono, non godono di una buona immagine sociale? infatti io mi chiedo, anche parlando con i famosi no slot che parlano di questo discorso della società civile, ma io lavoro con le leggi dello Stato, impianto delle macchine che mi consente lo Stato, sono le macchine meno, più leggere, e sono un delinquente. Quando c'erano i videopoker 12 anni fa mi sentivo meno delinquente. Sì, il paradosso è un po' questo, cari ascoltatori, lo vedo dai vostri messaggi che non siete convinti. Vi posso dire una cosa, io nella mia impressione, potete non condividerla, e che Eugenio Bernardi fa più fatica a dire, perché è un imprenditore del settore ed è, se comunque sta attento a quello che dice, perché ovviamente è diverso. Io credo che individuare i piccoli esercenti e le imprese che stanno nelle slot del gioco legale per la politica è considerato un nemico meno potente. Questo è il motivo per cui si colpisce lì rispetto alle grandi catene, alle sale di gioco dedicate e alle videolotterie, in cui si scommette molto, ma molto, ma molto di più. E quindi la politica si sceglie il nemico meno temibile. Attenti però, perché lo Stato, tra virgolette, etico dietro è sempre quello che incassa, e si sta scegliendo dove andare a incassare di più e chi bastonare per incassare di meno. Questa è la mia sintesi. Grazie Eugenio Bernardi. Per tutti voi ascoltatori, l'appuntamento riprendiamo domani sabato, tutto il ciclo fino all'anno prossimo di Conti da Bere, dalle 10 alle 12, con me Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminario e Renato Cifrelli. Appuntamento domani mattina in diretta.